Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Berlusconi davanti agli artigiani se la prende con la Costituzione, difficile governare con queste regole. Intercettazioni, governo verso la fiducia, opposizioni contrarie, anche Casini dice votiamo no. Donna uccisa a Sesto Fiorentino, la polizia ferma un uomo di 25 anni. Calcio, l'Italia arriva a Johannesburg, i tedeschi criticano le vuvuzuelas, disturbano. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a questa edizione di GR24. In apertura l'assemblea di Confartigianato, dove si doveva parlare di economia, assemblea annuale anche con dati economici. Poi il discorso è stato portato dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi su altri temi, tra cui un nuovo attacco ai giudici, all'oppressione giudiziaria e fiscale, ha detto Berlusconi, e anche alle regole costituzionali con cui è difficile governare. Ma andiamo per ordine, ci colleghiamo con l'auditorium di Roma dove c'è Alessandra Schepisi. Berlusconi sta ancora parlando, buongiorno Alessandra. Sì, buongiorno Berlusconi a tutto campo qui all'Assemblea di Confartigianato. Comincia con un attacco alla Costituzione, il governare visto da dentro un inferno, perché l'architettura costituzionale rende difficilissimo trasformare progetti in leggi concrete. Poi il capitolo Abruzzo, sul terremoto dice il Premier abbiamo lavorato bene, ma sentiamo la voce di Berlusconi. Abbiamo naturalmente risposto bene al dopo terremoto, mi spiace che poi si tenti di buttare fango su ciò che è stato fatto dalla nostra protezione civile. Io non ho partecipato a nessuna appalto, non ho raccomandato nessuna azienda, ma vi posso assicurare che nei 390 contratti di appalto del terremoto non c'è stata nessuna cricca, non c'è stato nulla di men che positivo. Non bisogna guardare tutto attraverso il filtro di certe posizioni sposate anche dalla generalità della stampa. Altro capitolo, quello delle intercettazioni, sulle quali dice il Premier c'è molta baraonda. Sentiamo un altro passaggio del suo intervento. Oggi va in discussione al Senato la legge sulle intercettazioni telefoniche. C'è stata molta baraonda sui giornali a favore delle intercettazioni. C'è soltanto una piccola nomenclatura, una piccola lobby di magistrati e di giornalisti. Questa legge non risolve tutti i problemi, è un primo passo importante, cercheremo di migliorarla più avanti. E delle intercettazioni parleremo ancora più avanti. Torniamo però all'auditorium, Alessandra Schepisi, perché come dicevamo l'intervento di Berlusconi è ancora in corso, si doveva parlare anche di economia, c'è stato spazio anche per la relazione di Guerrini, presidente di Confartigianato, segni di ripresa, e poi chiedono che la manovra non venga cambiata dal Parlamento. Alessandra? Sì, Berlusconi ha terminato proprio in questi minuti di parlare, è tornato a difendere la manovra, abbiamo tenuto dritta la barra dei conti dello Stato, ha annunciato che entro l'autunno diventerà legge lo Statuto delle Imprese, una vera e propria rivoluzione copernicana che prevede tra le altre cose un limite alla tassazione complessiva per le aziende, e poi ha ribadito che occorre cambiare l'articolo 41 della Costituzione, in Italia troppi permessi e autorizzazioni. Un lungo intervento, quello del Premier, più volte applaudito dagli artigiani con i quali si è registrata una grande sintonia. Sottoscrivo in pieno la relazione del presidente Guerrini, ha detto Berlusconi. Guerrini aveva apprezzato la manovra economica del governo, auspicando che non si indebolisca nel percorso parlamentare, chiedendo che ora però si passi a quelle riforme indispensabili per dare slancio alle imprese. Plauso in particolare di Guerrini alla proposta sulla libertà di impresa, che anche attraverso la modifica dell'articolo 41 della Costituzione appunto prevede la sospensione delle autorizzazioni per le piccole e medie imprese. Dall'auditorium della musica vi restituisco la linea. Grazie, poi anche l'immancabile offerta della poltrona di Ministero dello Sviluppo proprio a Guerrini, come era avvenuto anche con la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Ma parlavamo della manovra economica, ci sono altri dettagli che emergono sui risparmi che potrebbero derivare soprattutto per quanto riguarda la spesa pubblica, mentre il Partito Democratico annuncia la manifestazione. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Una manovra economica, quella varata dal governo all'insegna del taglio della spesa, è ritenuta improduttiva. A tal fine, lo ricordiamo, una delle norme più contestate è il blocco degli stipendi del pubblico impiego per i prossimi 3 anni. Dalla misura arriveranno però risparmi per le casse dello Stato pari a 6,5 miliardi di euro. A sottolinearlo è l'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, spiega la relazione dell'ARAN, già nel primo anno della manovra si realizzeranno minori spese per 5,7 miliardi. Sul fronte parlamentare, intanto intanto tra oggi e domani vi saranno le tradizionali audizioni dei vertici finanziari del paese e delle parti sociali. Si inizierà questa sera con i sindacati, domani mattina sarà la volta di Confindustria, poi nel pomeriggio Banca Italia. Mondo della cultura intanto in piazza anche oggi contro la manovra, con un'iniziativa al Teatro Valle di Roma. Dall'opposizione Bersani PD conferma: il decreto così non va, scenderemo in piazza il 19 giugno. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. E dicevamo, il DDL intercettazioni, anche questa è una frattura tra il governo e l'opposizione. Oggi anche il leader dell'UDC Casini ha detto voteremo no. La seduta al Senato riprende nel pomeriggio. Elisabetta Fiorito, quali sono le novità? Buongiorno. Buongiorno, la maggioranza vuole fare presto, l'aula di Palazzo Madama è convocata per le 15 di oggi pomeriggio, quando gli emendamenti rimandati in Commissione Giustizia saranno al vaglio dell'Assemblea. Il Premier Silvio Berlusconi promette che questa legge è solo un primo passo, come abbiamo sentito, dopo che ieri ha blindato il testo anche per il passaggio successivo alla Camera. L'opposizione è compatta per il no, il segretario PD Pierluigi Bersani si chiede che miglioramenti abbia trovato il Presidente della Camera Gianfranco Fini, Antonio Di Pietro promette il referendum e anche l'UDC è contrario, critica la legge. Legge anche il quotidiano dei Vescovi Italiani L'Avvenire. Il PDL è intenzionato a mettere la fiducia già da oggi pomeriggio, suscitando le ire dell'opposizione. Sentiamo il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. Sì, io mi auguro che il governo non metta la fiducia, perché il Parlamento non rilascia timbri. Il Parlamento deve discutere e questa legge così com'è ancora non va. Io credo che sia interesse anche della maggioranza accettare dei cambiamenti che possono rafforzare il senso di legalità e anche rafforzare il ruolo della stampa in Italia. Da parte dell'opposizione si attende il parere del Capo dello Stato, ma dal Quirinale fanno sapere che Giorgio Napolitano si pronuncerà solo dopo l'approvazione delle Camere. Tra le novità, tolti dal testo le norme sulla pedofilia e sul segreto di Stato, previsto la proroga di 48 ore in 48 dopo la scadenza dei 75 giorni massimi previsti per le intercettazioni, confermate le sanzioni per gli editori fino a oltre 450.000 euro. E per il momento qui da Palazzo Madama è tutto, per studio. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito, si chiude così la ampia pagina politica. Adesso andiamo invece con la cronaca, ci spostiamo in Toscana, dove c'è già un fermo per l'omicidio di una donna avvenuto ieri a Sesto Fiorentino. C'è subito una svolta nelle indagini per l'omicidio di Raffaella Ingrassia, la donna di 44 anni trovata uccisa a coltellate nella sua abitazione a Sesto Fiorentino, vicino a Firenze, ieri sera nella zona di Colonnata. I carabinieri hanno fermato un ragazzo di 25 anni e lo stanno interrogando. Il delitto è stato scoperto quando alcuni amici della donna, invitati a casa per la cena, dopo aver suonato più volte il campanello e non avendo avuto risposta, hanno dato l'allarme. La donna era sposata, aveva una figlia, ma la ragazza e il marito erano a Taranto da alcuni giorni. Sull'omicidio sta indagando il sostituto procuratore Giuseppina Mione. Per il momento non sono state formulate ipotesi di reato a carico del fermato. L'arma del delitto non è stata trovata e nell'appartamento non ci sono segni di effrazione, quindi la vittima avrebbe fatto entrare il suo assassino e forse lo conosceva. L'omicidio potrebbe risalire al pomeriggio di ieri. Ubaldo Cianciulli, GR24, Il Sole 24 Ore, Firenze. E ora vogliamo parlare ancora una volta della marea nera, perché sembra che la copertura posta sul fondo del Golfo del Messico, sopra la falla da dove esce il petrolio, sembra appunto che funzioni come previsto, anche se Obama ieri è tornato ad attaccare i petrolieri. Il tappo posizionato 5 giorni fa nel Golfo del Messico ha recuperato quasi 15.000 barili di greggio nelle ultime 24 ore, più dei giorni precedenti. Lo ha annunciato l'ammiraglio Allen, a capo delle operazioni. Ma i problemi per la BP non sono finiti. Ieri Obama è tornato ad attaccare i responsabili del disastro. Un mese fa sono stato nel Golfo per discutere dei possibili rischi delle perforazioni. Non mi trovavo lì con esperti per un seminario accademico, ma perché loro potevano avere le risposte migliori. Così ora so chi prendere a calci. Queste le parole del presidente intervistato dalla NBC. Obama ha criticato anche il numero uno della BP, Tony Hayward, che in un primo momento aveva minimizzato i danni causati dal petrolio. Hayward testimonierà davanti al Congresso la prossima settimana. Intanto la BP si prepara ad affrontare la questione dei risarcimenti. Nelle prossime settimane i vertici della compagnia incontreranno le autorità federali. Nell'attesa il colosso petrolifero ha assunto 4.500 disoccupati di Louisiana, Mississippi e Alabama per ripulire i 200 chilometri di coste raggiunte dal petrolio. Ludovica Scaletti, GR24, Il Sole 24 Ore. Tra poco andremo in Sudafrica, dove è arrivata la nazionale di Marcello Lippi, accolta con grandi misure di sicurezza. Prima però vogliamo fare un antipasto sempre calcistico e vogliamo parlare un po' di calciomercato, soprattutto del balletto delle panchine, con un avvicendamento ufficializzato proprio nelle ultime ore che fa naturalmente discutere. Parliamo di Benitez e Mourinho. Dario Ceccarelli. Allora. Sì, questo Benitez è il nome nuovo dell'Inter, che così suscita tantissima curiosità, perché lasciare un Mourinho per un Benitez, che comunque ha grande fama di allenatore, il Liverpool, grande preparatore, grande studioso del calcio, però così già esteticamente i due si presentano in modo diverso, perché Benitez è più rotondetto, è così una figura più paciosa rispetto al vulcanico Mourinho, che ogni conferenza stampa ne inventava una. E qui appunto il problema sarà se c'è un'attesa che su Benitez con queste aspettative. Chiaramente è un personaggio diverso. Benitez è uno che è uno studioso, è uno che sta ore e ore a studiare tutte le tecniche, gli allenamenti, eccetera, eccetera. Però non è così istrionico come. Ecco, dal punto di vista dialettico, si è detto che Mourinho lascia un vuoto nel calcio italiano. Secondo te Benitez riuscirà in qualche modo, magari con altre armi, a. Ecco, questo è bene che i tifosi interisti lo sappiano. Si preparino. Benitez è un'altra musica. È un'altra musica, è uno che non ama le polemiche, se ne sta così quatto, per cui darà un'impronta diversa. Moratti deve tenerne conto, perché non può delegare completamente come faceva con Mourinho, che diciamo che gestiva tutto, anche i rapporti con l'esterno. È uno più da interno. Un'altra musica, quella di Benitez, anche quella di Leonardo, che ha lasciato il Milan, e per lui adesso forse un futuro interessante. Sì, interessante, perché si prospetta, adesso non è ancora dato per certo, si sa il calciomercato, il toto allenatore e poi cambia di giorno in giorno, però le ultime notizie che arrivano anche dal Sudafrica parlano di un Leonardo che è pronto a sostituire Dunga dopo l'avventura dei mondiali, qualsiasi cosa succeda, cioè se il Brasile vince il mondiale o comunque venga eliminato, però è il nome nuovo per la panchina del Brasile, e penso che lo meriti, perché Leonardo ha dimostrato di saper gestire bene una squadra come il Milan, che non brillava certo nell'ultimo anno per continuità e per risultati. 13 e 18 minuti, seconda parte di GR24. Nella prima ci siamo occupati del discorso di Berlusconi all'Assemblea degli Artigiani in corso a Roma. Berlusconi se l'è presa con la Costituzione, difficile governare con queste regole. Poco fa la replica di Bersani, ha giurato su quella carta, se non gli piace se ne vada. E poi sulle intercettazioni, il DDL ritorna oggi al Senato, il governo va verso la fiducia, le opposizioni sono compattamente contrarie, anche Casini dice voteremo no. E poi la cronaca a Firenze con la svolta nell'omicidio di una donna a Sesto Fiorentino, la polizia ha fermato un uomo di 25 anni. Adesso andiamo all'estero e cominciamo con le Nazioni Unite, che oggi dovrebbero varare una nuova risoluzione di sanzioni contro l'Iran, le più dure di sempre contro Teheran, ha detto il segretario di Stato americano Hillary Clinton. Dopo mesi di pressioni, ammonimenti, ultimatum, poi rientrate all'ultimo momento, la comunità internazionale ha deciso di dare seguito ai suoi avvertimenti. Oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU procede nei fatti contro la Repubblica Islamica. Il programma nucleare di Ahmadinejad non è conforme alle regole internazionali e anche Russia e Cina sono d'accordo con una risoluzione che imponga restrizioni nei confronti di Teheran. Il consenso è unanime. Non solo Obama dall'America, ma anche Vladimir Putin dalla Russia convengono sul fatto che con le sue reticenze in materia di nucleare il presidente iraniano Ahmadinejad ha esagerato. È tempo di dire a lui e al suo governo ora basta. L'ONU dovrebbe approvare oggi una bozza di risoluzione in forza della quale banche e aziende iraniane vedranno scattare misure restrittive nei loro confronti, mentre singoli individui più o meno vicini al governo saranno ufficialmente inserite in apposite liste nere e formalmente bollati come non graditi a livello planetario. Unici contrari Turchia e Brasile, che con l'Iran avevano appena firmato un accordo per acquistare l'uranio arricchito iraniano. Per Obama è una vittoria, per Ahmadinejad l'isolamento definitivo sul piano internazionale. Luciano Clerico, GR24, Il Sole 24 Ore, Washington. E restiamo in America perché oggi alla Casa Bianca ci sarà un incontro tra il presidente Obama e il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, il primo incontro dopo il blitz alla flottiglia di navi che portavano gli aiuti umanitari a Gaza, che è costato la vita a 9 pacifisti, il blitz della Marina israeliana. E allora sentiamo. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato oggi a Gerusalemme per la terza volta negli ultimi giorni il Consiglio di difesa del suo governo. Secondo indiscrezioni si parlerà delle consultazioni in corso fra Israele e Stati Uniti per la creazione di una commissione d'inchiesta sul blitz israeliano alla nave turca. Blitz avvenuto una settimana fa e che si è concluso con l'uccisione di 9 attivisti filo-palestinesi e decine di feriti. Israele, che si oppone ad un'inchiesta internazionale, propone invece una verifica propria che coinvolga 2 osservatori stranieri in rappresentanza di Stati Uniti ed Unione Europea. I ministri israeliani, secondo quanto riportato dalla radio militare oggi, discuteranno anche la possibilità di alleviare il blocco imposto alla striscia di Gaza 3 anni fa. Si attende anche l'incontro oggi a Washington tra il presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen e Barack Obama. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E restiamo all'estero, parliamo della decisione della Libia che vuol chiudere, e anzi ha già chiuso, l'ufficio dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati proprio a Tripoli, una decisione che spiazza l'Unione Europea, che chiede chiarimenti e si dice preoccupata da questa decisione, e anche il ministro degli Esteri Frattini chiede spiegazioni. Non facciamo parte della Convenzione di Ginevra sui rifugiati e non abbiamo alcun accordo con l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati. Così Tripoli motiva la chiusura dell'ufficio dell'Agenzia dell'ONU per i rifugiati, appunto, in Libia. Ufficio che, a detta di Tripoli, è quindi illecito e svolge azioni illegali sul suo territorio. La Convenzione stabilisce chi può essere considerato un rifugiato e quali forme di protezione dovrebbe ricevere dagli stati aderenti al documento. Senza la nostra agenzia, denuncia adesso l'ONU, restano in sospeso 9.000 rifugiati e 3.700 richiedenti asilo, già presenti in Libia, oltre ovviamente in futuro a quelli che arriveranno. A questo punto, sostiene ancora l'agenzia, l'Unione Europea e tutti i paesi che guardano alla Libia come luogo in cui la gente che fugge da persecuzioni può essere accolta, dovrebbero riesaminare la loro posizione. Tra questi paesi c'è l'Italia, che con la Libia ha sottoscritto un trattato che riguarda anche l'immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri Frattini sottolinea di aver già chiesto spiegazioni alla Libia. C'è stato detto che mancava un accordo a regolare la questione, ha detto. Ora chiediamo alla Libia di avviare il negoziato necessario ad arrivare a quell'intesa. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora torniamo in Italia e parliamo di una opera infrastrutturale che da molto tempo è in corso di realizzazione, il Mose di Venezia. Oggi il neo presidente, insomma, si fa per dire, del Veneto, Zaia, ha organizzato una visita sul cantiere ed è una curiosità per tutti sapere a che punto sono i lavori. Silva Menetto, in mezzo al mare, buongiorno. Buongiorno, io in mezzo al mare, alcuni colleghi sono invece a sorvolare il giro in elicottero sopra i cantieri del Mose. Il 63% dei lavori ormai eseguiti, come avete detto, Luca Zaia ha deciso di portare un cospicuo gruppo di giornalisti italiani e anche stranieri a vedere a che punto sono questi lavori, una visita ufficiale a quello che è il primo committente, è stato definito proprio così, della regione Veneto, dato che il sistema di dighe mobili che deve salvare Venezia dalle acque alti impiega direttamente o indirettamente 3.000 persone e continuerà a farlo. Imponenti davvero i cassoni in cemento armato che sono in costruzione e che a metà del 2011 saranno posizionati sul fondo del mare alle 3 bocche di porto di Venezia. Ai cassoni saranno ancorate 78 paratie mobili che si alzeranno ovviamente ogni qualvolta l'altezza dell'acqua raggiungerà un pericolo per la città. Il costo di quest'opera di macroingegneria è stimato intorno ai 4 miliardi e 700 milioni di euro, di cui solo 3,2 sono stati finora assegnati. Dicevamo che è un'opera veramente mastodontica di cui non esistono precedenti, su cui dunque sono puntati gli occhi di tutta la comunità scientifica e non solo, e al presidente del magistrato alle acque Patrizio Cuccioletta è toccato ribadire anche questa mattina che intorno al Mose ruoterà poi tutta una serie di realtà imprenditoriali e scientifiche che consolideranno proprio Venezia ai vertici della ricerca, e lo ha ribadito anche Luca Zaia. A questo punto gli occhi del mondo sono proprio puntati su Venezia per vedere ovviamente come si muoverà il MOSE una volta che sarà completato nel 2014 e come potranno essere date. C'è ottimismo sulla data del 2014, Silva, in un secondo per, prima di chiudere? Prego? C'è ottimismo sulla data del 2014? Il 2014 per... è una data possibile, sempre che i finanziamenti continuino ad arrivare, ecco, esattamente come sono arrivati in questi anni. È sempre un problema di finanziamenti, certo. Grazie, grazie Silva Menetto. Lasciamo le acque della laguna di Venezia e andiamo in Sudafrica, andiamo a Johannesburg, in particolare con il nostro Dario Ricci, che si trova nei pressi del ritiro degli azzurri che sono arrivati questa mattina. Buongiorno Dario, buongiorno. Che cosa, com'è il ritiro? Tu sei lì, cosa vedi? Sì, sono proprio qui al Southdown College di Centurion, siamo a una quindicina di chilometri da Pretoria e a circa 40 da Johannesburg. Gli azzurri sono arrivati questa mattina tra ingenti misure di sicurezza, anche qui grande attenzione alla sicurezza, quelli che sentite in sottofondo sono proprio i walkie-talkie degli uomini della security che stanno curando proprio l'attenzione qui nel ritiro degli azzurri, azzurri che arriveranno qui alle 15.30 per il primo allenamento e poi dopo ci sarà la conferenza stampa, la prima conferenza stampa di in terra sudafricana di Marcello Lippi. Direi ambiente tranquillo, campi in perfetto stato e quindi pronti per essere calcati dai nostri ragazzi. Più avanti Dario ci farai, insomma, ci comincerai a raccontare retroscena della formazione, quant'altro, gli allenamenti, quello che dirà Lippi. Una cosa però te la volevo chiedere, una curiosità che riguarda la polemica che i tedeschi credo abbiano fatto contro le vuvuzuelas, cioè le tremende trombette che loro dicono disturbano. Ti è giunta notizia di questa polemica? Beh, assolutamente, cioè, innanzitutto mi raccomando con la pronuncia, qua gli africani sudafricani raddano vuvuzela, nome che comunque avremo sicuramente nome, tempo e modo per impararle, di, sì, di imparare bene, ma la polemica va avanti già da diverso tempo, dalla Confederations Cup, soprattutto sono le televisioni un po' a far la guerra alle vuvuzela, perché moltiplica una vuvuzela per 90.000 e già avrai, puoi avere l'idea di quella che sarà per esempio la partita inaugurale del Sudafrica contro il Messico. Tra l'altro la vuvuzela è quasi un'arma tattica per i sudafricani, perché punteranno su quello per ottenere qualche risultato, invocata proprio contro il Messico. Detto questo, credo che sia un'usanza molto bella da vedere. Insomma, coreografica, scenografica, un po' di frastuono la fa, ma insomma, sì, dai. Staremo a vedere, anche sarà un tormentone sicuramente anche questo. Grazie Dario, ci sentiamo più avanti in giornata su Radio 24 da Johannesburg, 13:28 minuti, ci fermiamo qua, adesso c'è Italia in controluce, poi America 24 con Mario Platera più tardi. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.